Ciao Radio Quartiere, volevo leggervi una favola di Esopo. Zeus e il pudore. Zeus aveva fabbricato gli uomini e ci aveva messo dentro le varie inclinazioni. Solo si era dimenticato del pudore. Non sapendo quindi come farlo entrare loro in corpo, gli ordinò di passare per il sedere. Questo sulle prime si oppose, sdegnato. Infine, alle violente pressioni di Zeus, dichiarò: «Ebbene, io entro, ma a questo patto, che non ci entri Eros. Se ci entra lui, esco subito io. Ecco perché non v'è bardassa che abbia un briciolo di pudore». La favola mostra come chi si lascia dominare da amore diventa uno spudorato.